Ba ba ba ra ra ra ta ta ba ba ba ba ba ba ta ra pa pa ra ra ri ra ta ta ra ba ra ra ra ra ba pa pa. Aria di primavera, la sera spira sulla pianura. La inspiro, respiro, ti spio, e al mio sospiro si appannano i vetri sottili e il fumo che offusca l'atroce visione di te. Col tuo violino a braccetto col vicino di casa. Aria, non guardi in aria quando cammini, ti sei mai accorta di me, che pure ti spio dalla tenera età di 8 anni. A chi mi chiede ma cos'è che guardi con tanto interesse, rispondo ma guarda da te, qui c'è soltanto aria, aria, lascia perdere i vortici di passione un asmatico, s'ansimando per te. Aria, questo mio viso pallido e bluastro da asfittico, hai bisogno di te. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Hey! Aria, ripensi ancora a quella sera che t'ho incontrato per caso per strada e ti ho chiesto perché col tuo vicino sì e non con me, e tu rispondesti con aria vagamente indifferente: mi scusi, ma noi due ci conosciamo per caso? Sola poi sei scappata la notte nera di sabato sera, nei vicoli t'ho cercata, poi t'ho trovato, ricordo hai gridato: aiuto, vi prego, chiamate qualcuno, c'è un uomo che vuole abusare di me. Ma ho chiuso gli occhi ed ho sognato. Prendimi tutto, aria, e poi lasciami soffocare nel sangue che ti scorre nel cuor. Aria, in quegli occhi tuoi umidi i momenti più magici li ho vissuti con te. Ed ora son rinchiuso in un carcere per aver solamente amato te nella mia mente.